l'amore se fosse un problema di tempo. Il problema è che non c'era amore, non si è mica prodotti a scadenza, ma lunghissima conversazione. Anche noi che siamo stati ignoranti e violenti dentro alle parole. Le parole erano venti di rabbia che agitavano un mare d'amore, inventato per farci cullare. Poi quel mare ci poteva affogare quando i venti erano morsi di cane ed il sole bruciava anche i sensi. Siamo partiti coi motti del cuore per finire con le botte sui denti. Ora che siamo due delinquenti che non vogliono farsi trovare, certo è inutile stare a scoprire chi per primo ha iniziato a sparare. Certamente ti ho fatto un po' male, sai che forse mi hai spezzato il cuore, ma ora vestiti che fa un po' freddo, sta arrivando un altro temporale. Voglio darti l'abbraccio più grande e più forte che si possa sentire. E se non c'è un problema di tempo, ci sarà pure un bel lieto fine. Quindi aspettami ancora un secondo, fa un po' freddo e sta per nevicare. Ho una voglia di darti un abbraccio perché adesso ti posso abbracciare.